incubo per troppi, troppi spiriti finiti sfruttati, ma trattati scelgono di abbandonarla, scappando da chi usa pugni invece di carezze, usa la violenza con chi vuole solo amore, nata in catene, vita di bene, bruciata in partenza da un luogo bastardo, luogo malsano di leggi violente, paura, angoscia, morta d'acciaio, sentirsi candela e bruciarsi la vita, sentirsi solo e soffrire in silenzio e dimenticarsi del resto, dimenticarsi di sogni, ambizioni e volare, volare in zone violate, volare lontano, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, sentirsi universo di stelle appena nate, sentirsi nascere invece di morire e ricordare di volare.